Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Contagi stabili con meno tamponi, ma 100 persone in più ricoverate con sintomi, un migliaio in più in isolamento domiciliare, altri 7 in terapia intensiva. Sono i numeri di ieri che ci consegnano una situazione non preoccupante, ma alla quale fare attenzione, mentre si moltiplicano piccoli lockdown locali e anche la Sicilia impone l'obbligo di mascherine all'aperto. Nel fine settimana in realtà non ci si è concentrati su questo, ma ci si è un po' incartati sullo stipendio del presidente dell'INPS, Pasquale Tridico, passato da 60.000 a 150.000 euro all'inizio di agosto. Forse sottovalutando quello che stava avvenendo a livello politico, esattamente per le cose di competenza dell'INPS, con il presidente del Consiglio Conte che ha annunciato un colpo tanto a quota 100 quanto al reddito di cittadinanza. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. Simone Spezia. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno, è lunedì 28 settembre, sono le 6:31 minuti e 46 secondi e oggi è dura, è dura. Un po' di stanchezza, si è fatto tardi ieri per vedere Dzeko che si mangiava 3 o 4 gol, è così. Peter Belcapa in regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione anche Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrera, i nostri autori Margherita Ine e Francesco Ciaraffo, per l'inizio di questa settimana che ci porterà tra l'altro al primo dibattito, ne parleremo, tra Biden e Trump, sarà nella notte del 29. Non so come la vediate voi. Forse sarà anche inopportuno questo aumento di stipendio per Tridico arrivato proprio nel periodo più duro del Covid, della crisi economica, all'inizio di agosto. E però che il presidente dell'INPS, che deve gestire tutto quello che deve gestire, guadagni appena 60.000 euro, cioè ne guadagnava 60.000 prima che gli alzassero lo stipendio, un po' assurdo. Poi non pretendiamo di avere grandi capacità e grandi manager alla guida delle nostre strutture pubbliche se li paghiamo così. Non che 60.000 sia una brutta cifra, però per una persona che deve gestire tutto il sistema della cassa integrazione, delle pensioni, del reddito di cittadinanza, di che parliamo? Poi possiamo giudicare all'infinito, possiamo discutere all'infinito sulle qualità di Tridico, però... Come vi dicevo, però, la realtà è che nel frattempo le cose importanti... Mi paiono le parole che ha detto il presidente del Consiglio Conte, per esempio su quota 100, no? Avevamo delle persone che avevano, diciamo, la finestra pensionistica all'indomani e si sono viste allontanare questa finestra pensionistica dall'oggi al domani di molti anni. Quindi è chiaro che si trattava di venire incontro a questo disagio che era stato provocato ed è stata un'offerta, diciamo, temporanea, triennale, che scadrà l'anno prossimo, come lei ha ricordato. Non è all'ordine del giorno il rinnovo di quota 100. Non è all'ordine del giorno il rinnovo di quota 100, ossia non la rinnoveremo. Tra l'altro si parla anche di modifiche al reddito di cittadinanza, La Lega promette battaglia su quota 100, Salvini... Faremo battaglie democratiche ma determinate in Parlamento e fuori dal Parlamento, perché in un momento di crisi col lavoro degli italiani non si scherza. A proposito di pensioni, dice Conte, bisogna fare la lista dei lavori usuranti. Per quanto riguarda invece il discorso pensionistico, io auspico che possiamo, tra le varie riforme che ci aspettano, anche lavorare in questa direzione. Ci sono dei discorsi avviati da tempo, dobbiamo avere il coraggio di metterci intorno a un tavolo, ad esempio fare una lista dei lavori usuranti, mi sembra la logica migliore per affrontare una prospettiva del genere, e non possiamo mettere tutti sullo stesso piano. Sì, poi c'è anche tutta la questione dello stipendio di Tridico. Qualche ascoltatore dice: ma quei soldi sono lordi? Sì, sono lordi. E voglio precisare all'ascoltatore che spesso usa questo termine, ci scrive quasi tutte le mattine, dandomi del bolscevico, che A non sono bolscevico, B non sono d'accordo sull'aumento dello stipendio di Tridico in sé. Dico che una persona con quelle responsabilità, se vogliamo mettere una persona alla guida di un'istituzione con quelle responsabilità, non può guadagnare quelle cifre, per tutta una serie di motivi. Innanzitutto perché con lo stipendio da presidente dell'INPS devi poter attrarre un talento, possibilmente. In secondo luogo perché devi rendere questa persona il più incorruttibile possibile. Cioè, ci sono tutta una serie di motivazioni che stanno dietro la necessità di pagare una persona che in un ruolo di alta responsabilità una cifra decente. Vale per tutti, penso, per come la vedo io, vale anche per i deputati e per i ministri, e tutte le polemiche che vedo in queste ore sui quattrini che guadagnano, ministri, deputati, senatori, mi lasciano sempre perplesso. Poi non bisogna eccedere, però lo stipendio di Tridico, Conte. Non ero personalmente informato di questa vicenda. Ovviamente ho chiesto degli accertamenti perché vorrei un attimo approfondire la questione. Salvini, ancora sembriamo tornati all'agosto dell'anno scorso, quando lo scontro era fisso tra i due. Via. La decisione è stata stabilita il 7 agosto per decreto del ministro Catalfo 5 Stelle e Gualtieri PD, 7 agosto di quest'anno. E lo stesso Salvini dice: vabbè, ma se bisogna chiedere le dimissioni non è per lo stipendio. Un presidente dell'INPS che fa bene, il presidente dell'INPS deve guadagnare bene. Non penso che Tridico sia un buon presidente dell'INPS. Quindi ne chiede le dimissioni? Assolutamente sì, ma non per lo stipendio, perché ci sono ancora almeno 500.000 lavoratori italiani che non hanno preso la cassa integrazione. Il fallimento è questo. Così mi tiro via anche dall'accusa di essere un bolscevico, visto che lo dice anche Salvini, che se uno fa il presidente dell'INPS bene deve guadagnare il giusto. Caro Roberto Arditi, buongiorno, come stai? Direttore di Formiche.net. Bene, buongiorno, direttore editoriale. Eccoci. Ciao Roberto, senti, un accenno a Tridico, ma solo un accenno, perché come dicevo, in realtà le cose importanti stanno avvenendo, possiamo dire, sotto il naso di Tridico, ma riguardano altro, riguardano il reddito di cittadinanza, che Conte ha detto che vuole metterci mano, quota 100, quella la roba seria. Però dai, un accennino a Tridico diamolo, va. Boh, io penso che l'adeguamento del compenso per il presidente dell'INPS sia assolutamente ragionevole, è un lavoro molto impegnativo, l'INPS è una macchina molto complessa. L'adeguamento previsto dal decreto che ricordava Salvini, secondo me, non ha nulla di sbagliato. Faccio osservare solo, e dovrebbero essere in qualche modo loro a fare un po' di mea culpa, che gran parte di questa retorica sulle spese, sui costi, sugli stipendi, sugli emolumenti di tutti quelli che ricoprono incarichi pubblici l'hanno fatta gli esponenti del Movimento 5 Stelle, in qualche modo il movimento politico che ha indicato Tridico alla presidenza dell'INPS. E questa miccia è stata accesa qualche anno fa, in alcuni casi ha ragione, io tra l'altro sono uno di quelli che ha sempre pensato bene del referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari, l'ho detto e l'ho scritto, e sono contento che gli italiani lo abbiano approvato, però una buona parte della retorica contro tutti i costi, tutti gli stipendi, tutte le spese dello Stato, come se fossero sempre degli sprechi del Movimento 5 Stelle, mi è sembrato in questi anni in gran parte fuori luogo, e e poi dopo produce anche questi effetti qua. Ci facciano un pensiero anche tutti i dirigenti del movimento. Sì, sì, e voglio dire agli ascoltatori, qualcuno vuole, vogliono le precisazioni. Allora, Tridico guadagnava all'atto del momento, nel momento nel quale ha ricevuto l'incarico in realtà come commissario dell'INPS, perché non era ancora presidente, 60.000 euro, i quali sono passati a 150.000 appunto con un decreto di agosto dal quale sembrava che ci fosse la retroattività, ossia gli sarebbero stati pagati gli arretrati da quando è presidente dell'INPS. In realtà, a quanto pare, non sarà così. Su questo fronte le cose non sono chiarissime, devo essere sincero, come sempre è la legge italiana. Però per darvi un esempio, perché qualcuno dice sì, 150.000 sono tanti, però per darvi un esempio, qua il Fatto Quotidiano oggi squaderna un po' di stipendi dei boiardi di Stato, degli alti dirigenti dello Stato. Vi faccio un solo esempio all'interno dell'INPS. La signora Valeria Fabriano, che è direttore della filiale INPS di Roma Montesacro, e guadagna 186.000 euro all'anno. Quindi che il presidente dell'INPS guadagna, il presidente dell'INPS al momento guadagna meno della direttrice della filiale Roma Montesacro, che sarà importantissima, però con tutto il rispetto e con tutto l'apprezzamento per la professionalità, della quale sono certo, di Valeria Fabriano, che avrà fatto una lunga carriera all'interno dell'INPS, che il presidente dell'INPS guadagni di meno mi sembra un po' surreale, in tutta sincerità. Poi possiamo discutere sull'opportunità e su quello che diceva Roberto Arditi, ossia il fatto che questa retorica anticasta e antistipendi alti è stata montata dallo stesso partito che ha messo Tridico al suo posto, e su questo possiamo ragionare sicuramente. Roberto, si diceva che in realtà il fine settimana è un fine settimana che ha segnato un paio di svolte proprio su alcuni dossier economici che sono appunto il reddito di cittadinanza e quota 100, e anche mi sembra su altri dossier come quello dei decreti sicurezza. Un Conte che assicura che entro una decina di giorni i decreti Salvini verranno cambiati. Sì, indubbiamente, e tra l'altro nel segnale su quota 100 io leggo anche un messaggio importante, cioè negli ultimi mesi, quelli caratterizzati dalla pandemia, noi abbiamo visto un grande sforzo delle finanze pubbliche. Ecco, però non è che dobbiamo pensare che i soldi a questo punto sono disponibili in quantità infinita e per un tempo infinito. Cioè, questo segnale su quota 100 ha innanzitutto, a mio avviso, più che un carattere politico, cioè di in qualche modo cancellare una norma molto cara alla Lega e a Salvini, ha anche un segnale di cominciare a dire agli italiani che ci sono alcune aree di spesa sulle quali lo Stato dovrà fare un po' di attenzione, e in qualche modo la fine del finanziamento di quota 100 è un segnale di questo tipo, un segnale anche di carattere finanziario. Peraltro una misura, quella quota 100, che io non considero una misura utile o positiva, anche se per alcune persone ha ovviamente significato un vantaggio economico, e che tra l'altro gli italiani hanno utilizzato in misura inferiore rispetto a quello che avrebbero potuto fare. Questo lo dico perché dobbiamo anche un po' imparare da quello che è successo alle nostre spalle. Non tutti gli italiani che avevano diritto all'utilizzo di quella norma l'hanno fatto, e questo deve farci riflettere. Sì. Allora, gli anni a venire saranno anni nei quali, quando la normalità post-Covid sarà finalmente tornata tra noi, ci vorrà ancora del tempo, ma a un certo punto succederà, a quel punto guarderemo i conti generali, l'ammontare del debito pubblico, e il mondo tornerà al giudizio delle agenzie di rating e a tutto quello di cui dovremo tenere conto. Tanto vale cominciare a prepararci, tutto qua. Sì, fammi aggiungere un altro elemento. Io spero, in tutta sincerità, che il cantiere che a questo punto si aprirà sul tema delle pensioni sia un cantiere che porti a delle scelte, non dico definitive, ma delle scelte serie che durino nel tempo, perché lo ricordiamo sempre, gli effetti di qualsiasi modifica del sistema previdenziale si vedono sui 20 anni, e hanno almeno sui 20 anni, e hanno effetto sui nostri nostri figli. Quindi è sperabile che questa volta, se ci si mette mano, ci si metta mano un po' più solidamente, con un pensiero un po' più di lungo termine. 349. No, certo. No. Ricordandoci che tutto quello che viene dato adesso, sì, a chi va in pensione adesso, è sulle spalle dal punto di vista finanziario e quindi delle tasse che saranno pagate, è sulle spalle di quelli che arriveranno fra 15 o 20 anni. Quindi noi facciamo oggi cose che verranno poi pagate dopo, tanto per essere chiari. Già. 349-238-6666 per i vostri sms, messaggi su WhatsApp, WhatsApp audio, le vostre voci. Fatevi sentire su tutto quello che volete. La politica, Tridico, quota 100, traffico. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta Promo 24. Piemonte, bellezza singolare. Scopri i borghi storici e siti UNESCO con le residenze barocche. Piemonte, libertà singolare. Immergiti in panorami unici. Esplora le 96 aree naturali protette. Scegli il tuo itinerario sui 20.000 km di percorsi a piedi o in bici. Piemonte, gusto singolare. Assapora l'autunno col tartufo bianco d'Alba e i grandi vini di 18.000 cantine. Piemonte, spirito singolare. Vivi i percorsi dell'anima, i sacri monti, la via Francigena e le sinagoghe. Il Piemonte che non ti aspetti, scoprilo su visitpiemonte.com. No, il nostro punto di vista, lo dico all'ascoltatore che scrive o all'ascoltatrice, non è che è più che giusto che gli incapaci si raddoppino lo stipendio. Nessuno di noi due si è spinto a dare questa definizione di Pasquale Tridico. Non compete a noi questa è semplicemente un ragionamento su quanto può o deve guadagnare un manager pubblico. Semplicemente questo. Non scordiamoci il Covid, Burioni. Se non state perfettamente bene e se i vostri figli non stanno perfettamente bene, non li mandate a scuola, non andate al lavoro. Poi però c'è un'altra cosa che dobbiamo dire alle autorità sanitarie. Il tampone deve essere eseguito subito e il risultato deve essere disponibile prontamente. Non ci possono volere 4-5 giorni, deve esserci subito un risultato. Se state male, state a casa. Lo sentiamo Salvini? Sentiamolo, va. Sono stato 2 ore attaccato al cortisone e quando mi sono alzato il medico mi ha detto: lei ovviamente adesso va a casa. Mi ha detto: sì, stia tranquillo, passo prima ad Anguillara Sabazia, poi da Formello e finisco a Terracina, ma la sera arrivo a casa. E quindi ci tenevo troppo a essere qua, e quindi un po' dolorante, un po' febbricitante, però... Un po' febbricitante, però sono qua, sono a Terracina. Grande polemica su Salvini. Poi ha chiarito: non ho la febbre, ho il torcicollo. Vabbè, ma insomma, poco importa. Ho visto che siamo su Salvini. Andiamo sul tema dell'immigrazione, non venendo però alle questioni italiane per una volta, ma a quelle svizzere. Perché nel fine settimana in Svizzera si è votato nel referendum. Il referendum che avrebbe condotto a quella che qualcuno ha definito una sorta di Brexit Svizzera, cioè la Svizzera non è nell'Unione Europea e però ha degli accordi di libera circolazione con l'Unione Europea che sono a loro volta collegati a una serie di accordi economici. Ieri c'era un referendum per votare su una proposta di legge che dell'Unione Democratica di Centro, il partito di destra svizzero, che chiedeva di porre fine all'accordo sulla libera circolazione delle persone tra Svizzera ed Unione Europea, e gli svizzeri hanno detto no, noi questa modifica non la vogliamo, ci teniamo la libera circolazione con l'Unione Europea, con vantaggi e svantaggi. È con noi Giuseppe Rauseo, che è presidente dell'ACLI Svizzera. Buongiorno Rauseo, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. Era nelle attese? Beh, direi proprio di no. Diciamo che i giorni precedenti il voto le due parti si sono dati battaglia perché l'esito della votazione non era affatto scontata. e diciamo lo sappiamo bene perché nel 2014 le cose sono andate ben diversamente. Come sono andate nel 2014? Beh, nel 2014 c'è stata la famosa votazione sulla limitazione dell'immigrazione di massa, che invece in quell'occasione fu accolta per 20.000 voti, e quindi sulla scia di quella votazione del 2014, che ha creato tanti problemi poi al Consiglio federale, quindi al governo svizzero, la destra è tornata alla carica quest'anno con una richiesta, diciamo col suo cavallo di battaglia, quindi con una richiesta molto più chiara rispetto a quella del 2014. E per fortuna il popolo svizzero questa volta l'ha respinta nettamente. Ha deciso di no, ha pesato anche il fatto, come dicevamo, che la fine della libera circolazione tra Svizzera e Unione Europea dei cittadini avrebbe portato a un problema anche economico, perché avrebbe di fatto bloccato l'accesso al mercato europeo per la stessa Svizzera, cioè avrebbe avuto un impatto anche economico, avrebbe avuto una ricaduta a cascata su altri 6 accordi. Sicuramente, ovviamente ha pesato anche questo. Come l'ha presa la destra svizzera? Ma diciamo che per la destra svizzera era la madre di tutte le battaglie, era il cavallo di battaglia che ha cavalcato da sempre. Diciamo che con la votazione di ieri si mette un punto fermo rispetto a questo tema, e quindi la destra, come dire, avrà da oggi in avanti le armi spuntate su questo tema, che peraltro, come giustamente ricordava lei, se ieri il popolo svizzero avesse accettato questa iniziativa, sarebbe scattata la famosa clausola ghigliottina, che avrebbe fatto cadere anche gli altri 6 accordi che la Svizzera ha sottoscritto con l'Unione Europea, provocando ovviamente anche per l'economia svizzera delle forti ripercussioni negative. Senta Rauseo, nel Ticino, nel qui vicino Ticino, in realtà hanno vinto, se non vado errato, i sì, no? Con un 53% a questa proposta. Ticino che sta provando a mettere in atto una stretta nei confronti degli immigrati italiani. Beh, non direi proprio così, nel senso, è vero, il Canton Ticino è un cantone di frontiera che vive dei problemi molto diversi dal resto della Svizzera. Solo per darle due dati, il mercato del lavoro ticinese ha circa 230.000 persone attive, quindi che lavorano, su una popolazione di 350.000 abitanti, e 70.000 frontalieri italiani ogni giorno entrano sul mercato ticinese a lavorare. Quindi diciamo che il mercato del lavoro ticinese è molto particolare e subisce delle forti pressioni dei lavoratori frontalieri, e quindi in questo modo si spiega anche il voto positivo del cantone, che però rispetto a quella famosa votazione del 2014 che ricordavo poco fa, la percentuale si è notevolmente assottigliata. Se nel 2014 il Ticino aveva accolto quella iniziativa col 68%, ieri il Ticino ha respinto questa iniziativa col 53%, quindi diciamo che l'elettorato ticinese nell'arco di 6 anni ha modificato parzialmente le sue posizioni. Grazie Giuseppe Rauseo, presidente dell'ACLI Svizzera, per essere stato con noi. Roberto Arditti, direttore editoriale di formiche.net. C'è GR24, ci troviamo subito dopo con la rassegna stampa, e sì, parleremo anche un altro po' di questa storia dello stipendio, perché sui giornali ci sono tantissime cose, ma anche ovviamente di Covid, di quello che succede nella scuola, dei problemi, del caos che sta avvenendo in alcuni istituti e non solo. GR, a tra poco. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.